24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, l'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, ben ritrovata. Buona giornata a tutti. Buongiorno. Alessandro, buongiorno anche a te. Allora, oggi ci vogliamo concentrare su Piazza Affari, sulle borse italiane, sulle borse, perché sapete l'andamento è sempre negativo, tranne ieri c'è stato un rialzo, ma insomma, sì, non sono si può situazioni... dire che il trend sia favorevole, sia tra l'altro sono situazioni che vediamo, è anche ovvio che dopo giornate consecutive di ribassi si vedano anche dei rialzi, ieri è stato anche eccezionale. Prima però ti volevo raccontare una notizia che ho scoperto, lo sapevi che quando le borse crollano, l'amore trionfa? Sai così, è rimasto senza parole. E che in tempo di crisi. E che in tempo di crisi bisognerebbe puntare tutto sui sentimenti. Questa è la tesi contenuta nel semestrale Love, che è una nuova scommessa editoriale inglese. La notizia è stata trovata da noi, ma in realtà per primo l'ha scoperta Carlo Rossella. Questa per dirti. Vabbè, comunque. No, ma è anche giusto, insomma, che in tempi di sfiducia totale come questo si vada anche a caccia di notizie un po' curiose e divertenti che possano mettere di buon umore. Quello che volevo arrivare a dire è che se la verità è questa, noi italiani dovremmo essere più innamorati che mai, considerato che Piazza Affari è di gran lunga la borsa peggiore fra le principali piazze europee. A parte quello che è successo ieri, che ha visto un balzo della borsa italiana del 7%, le altre piazze europee hanno fatto circa 5 punti. Volevo dare qualche statistica: dall'inizio dell'anno Milano perde circa il 35%, questo è al netto di quello che è successo ieri. Londra fa meno 20, Parigi fa meno 20, Francoforte meno 23, Zurigo meno 22, New York fa meno 25. E allora oggi volevamo cercare di capire il motivo di questo e magari volevamo cercare di spiegare a chi non legge troppo spesso e volentieri le pagine finanziarie dei quotidiani perché sente parlare dell'andamento dei mercati in questo modo e si chiede perché la borsa italiana va in una determinata maniera rispetto alle altre borse internazionali. E tra l'altro, visto che quello che pervade gli investitori è un sentimento di sfiducia, come tornano a commentare anche molti editoriali sui quotidiani questa mattina, noi faremo qualche domanda ai nostri ospiti di oggi anche su come si può affrontare un momento come questo. Intanto buongiorno e grazie di essere a Soldi e Dintorni a Mauro Vicini, responsabile della ricerca azionaria di websim.it. Vicini, benvenuto. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Marco Liera, responsabile dell'inserto dedicato al risparmio e agli investimenti del Sole 24 Ore Plus 24. Marco, eccoci, buongiorno anche a te. Ora, buongiorno a tutti. Allora, Mauro Vicini, vorrei cominciare con lei per aiutarmi a fare un po' di ABC ai nostri ascoltatori che così magari stanno capitando in questo momento su Soldi e Dintorni e stanno sentendo che parliamo di borsa non in termini troppo felici, questo lo sappiamo bene, ma perché la borsa italiana quando l'Europa va male perde molto di più? Sì, questo vale perlomeno negli ultimi mesi, perché sappiamo che uno dei settori che soffrono di più è quello dei finanziari. Agli finanziari appartengono solitamente assicurative e banche e il nostro indice, ahimè, è molto ricco di aziende e di titoli che rappresentano questo settore. Oggi l'incidenza sul totale delle azioni presenti a Piazza Affari è intorno al 40%, ma un anno fa era nettamente superiore. Poi piano piano tutti i prezzi delle banche e delle assicurazioni si sono sgonfiati e siamo scesi a un 38,5-40%. Ecco, vale la pena ricordare che in momenti di borsa molto più felici, come 3 o 4 anni fa, questo era lo stesso identico motivo che portava invece la borsa italiana a crescere molto più delle altre. Esattamente, esattamente. Questo vale anche per altri listini europei che a volte soffrono di più di altri perché hanno settori che in quel momento sono in difficoltà. Dato quello che valgono adesso le società quotate in borsa, è stato fatto un calcolo, l'ha fatto il Sole 24 Ore che è stato pubblicato domenica ed è un tema sul quale tra l'altro si è soffermato anche l'asterisco del direttore del Sole 24 Ore De Bortoli lunedì mattina. Piazza Affari è arrivata a valere meno del patrimonio immobiliare della città di Milano. Cosa significa questo, Vicini? Ma questo vuol dire che i prezzi si sono sgonfiati parecchio e che il livello di sfiducia è ai massimi degli ultimi 15-20 anni, quindi si sconta che la crisi continuerà ancora per parecchi mesi e che la ripresa non si vede ancora, o perlomeno non si ha nessunissima visibilità su quando e come potrà avvenire la ripresa. Ecco, a noi naturalmente poi interessa capire anche come da piccoli investitori ci possiamo comportare in una fase delicata come questa. Marco Liera, è logico che i risparmiatori si domandino che senso possa avere investire in borsa in questo momento, in una fase che ha cancellato anche la regola aurea dell'investimento sul mercato azionario, cioè attendere un lungo periodo. Tu che cosa osservi dal tuo osservatorio di Plus 24? Qual è in questo momento l'atteggiamento verso la borsa delle famiglie italiane? Non c'è chiaramente una grande predisposizione all'investimento azionario in questo periodo. È normale che sia così perché prevalgono le informazioni negative, perché tutti i media chiaramente rilanciano i dati sulle perdite di borsa, vabbè, tranne la seduta di ieri che invece è andata in controtendenza. Peraltro bisogna ricordare che diverse statistiche, diversi studi, cito per esempio quello di cui ho parlato domenica sul Sole, quello di Dimson, Marsh & Staunton, che sono tre professori della London Business School, hanno messo in piedi uno dei maggiori, delle più importanti banche dati sull'investimento azionario, sull'investimento obbligazionario, un database di 109 anni. Ecco, questi dati dimostrano che effettivamente in tutte le borse, anche quella italiana, sembrerà strano, però esiste il cosiddetto equity risk premium, cioè il fatto che su orizzonti lunghi le azioni rendono di più dei titoli di Stato. Il problema è che questo orizzonte lungo si è ampliato a dismisura in questo momento. Stavo per dirlo, i 10 anni che sono alle nostre spalle sono un periodo lungo, perché oggettivamente è un periodo lungo, insomma, è la speranza di vita degli umani, chiaramente rispetto a una speranza di vita degli uomini, è chiaro che anche 10 anni possono essere un orizzonte particolarmente significativo, no? Perché noi non viviamo mediamente 400 o 500 anni, ma sfortunatamente meno, e quindi ci si interroga, ma bastano 10 anni? Probabilmente no, anche in passato c'erano stati dei periodi, delle finestre temporali di 10 anni in cui le azioni avevano dato dei rendimenti negativi, assai inferiori comunque a quelli dei titoli di Stato. Non è la prima volta che accade, certamente i risparmiatori, così come tanti operatori professionali, spesso privilegiano le informazioni di ieri, dell'altro ieri, delle ultime settimane, rispetto alle informazioni che invece descrivono quello che è accaduto storicamente. Peraltro non è garantito che questo si debba ripetere, anche qui ci sono alcuni studi che mettono un po' in dubbio, ecco, la solidità teorica di questo equity risk premium, cioè della superiorità dei rendimenti azionari rispetto a quelli obbligazionari. D'altra parte io dico anche che guardare a queste statistiche così ricche, così estese, così approfondite è forse una delle poche guide che ci resta in questo mare di incertezza. Tenendo conto appunto, come dicevi Marco, che comunque quella con la quale abbiamo a che fare è una crisi di portata inedita, per cui evidentemente anche le statistiche relative al passato dobbiamo prenderle, non dico con le pinze, tu che dici? Ma anche qui sui dati del passato spesso ci sono state delle critiche perché questi indici azionari osservati per così lunghi periodi non tengono conto del fatto che per esempio ci sono delle società che spariscono dai listini, che è il cosiddetto, purtroppo devo usare un termine inglese, survivorship bias, cioè è la distorsione data dal fatto che gli indici misurano solo le società che sopravvivono, quindi non le società che chiudono, che escono dai listini, che probabilmente hanno anche degli esiti infelici in termini di rendimento per i loro azionisti. Forse bisognerebbe fare qualche maggiore analisi su questo, ma noi infatti attendiamo che i professori che in tutto il mondo si stanno dedicando allo studio dei mercati approfittino di quello che sta succedendo per fornirci nuove conoscenze sull'andamento prospettico dei mercati finanziari. Tra l'altro devo dire con un utilizzo, perché uno pensa che questi professori, no, facciano delle cose sempre molto complicate, molto sofisticate, in realtà questi studi sui mercati finanziari possono aiutare moltissimo le decisioni dei piccoli risparmiatori, che in molti casi, alla luce dell'andamento storico, potranno anche decidere di dedicare tutti i loro investimenti a strumenti liquidi e sicuri come i BOT e i depositi bancari, invece ci saranno altri casi in cui, alla luce degli andamenti storici pienamente consapevoli e approfonditi, potranno dedicare una quota dei loro risparmi agli investimenti azionari. Grazie. Devo salutarti, Marco, perché purtroppo siamo in chiusura, ho già rubato 30 secondi ad Alessandro Milan. Grazie per essere stati con noi, torneremo sicuramente più avanti su questi argomenti. Io oggi, Alessandro, per fare una cosa rapida, mi occupo ovviamente di investimenti e di mattone, come stiamo andando adesso a prezzi. Ah, il mattone, beh, giusto. Sono le 8:32, uno sguardo alle ultime notizie. Il premier Berlusconi propone di cambiare i regolamenti parlamentari per avere tempi certi sull'approvazione delle leggi. Votino solo i capigruppo, ha detto Berlusconi. È una proposta che cadrà nel vuoto, replica il presidente della Camera, Fini. Sono stati scagionati dall'accusa di stupro i due rumeni arrestati per la violenza al parco della Caffarella a Roma. I due rimangono però in carcere, uno perché indagato per un'altra violenza sessuale, quella di Primavalle, il secondo perché indagato per calunnia e autocalunnia per la sua iniziale confessione poi ritrattata. Il questore di Roma dice: se anche non sono gli autori materiali, siamo sicuri che quella sera erano lì. Un barcone con 332 migranti, tra cui 23 donne, è sbarcato in nottata a Lampedusa. Gli extracomunitari saranno ora trasferiti nei due centri di identificazione ed espulsione, dove si trovano già quasi 600 persone. L'ultimo sbarco sull'isola risale a circa un mese fa, subito dopo gli accordi siglati tra Italia e Libia. Infine il calcio, la Juventus è stata eliminata dalla Champions League. Ieri i bianconeri non sono andati oltre il 2-2 casalingo col Chelsea, che all'andata aveva vinto 1-0. Nelle altre sfide di ieri passano Liverpool, che ha eliminato il Real Madrid, Villarreal e Bayern Monaco. Stasera le ultime due italiane in campo: Manchester United-Inter, si parte dallo 0-0 di San Siro, e Roma-Arsenal, all'andata finì 1-0 per i londinesi. Per il calcio nostrano invece il Napoli ha esonerato ieri sera Eddie Reyes e ha chiamato sulla panchina Roberto Donadoni, che sarà presentato oggi alla stampa. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, dedicato anche oggi al piano casa, uno sguardo a quello che già succede in Veneto. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Non c'è solo il piano per le nuove costruzioni di cui abbiamo parlato ieri. Il Veneto ha approvato il disegno di legge che consente gli ampliamenti delle abitazioni e un po' anticipa quello che avverrà in altre regioni. La novità è che sarà comunque a titolo oneroso, con uno sconto sulla prima casa. Resta da capire se si colpiranno e se veramente i furbi, e i dubbi in questo caso non sono pochi. L'effetto sul mercato nazionale di questa misura è stimato in un incremento del 35% dell'attività edilizia. Va però presa in considerazione la proposta del ministro Brunetta di vendere gli alloggi degli ex istituti autonomi case popolari agli inquilini, trasformando gli affitti in mutui. È una buona idea che darebbe un valore di scambio a case che hanno solo un modesto valore d'uso e consentirebbe forti risparmi per lo Stato. La crisi che stiamo vivendo è nata dalla bolla immobiliare, dai mutui facili. La ripresa potrebbe ripartire dalla casa, sostenendo proprietari e inquilini, senza creare però la bolla degli abusi che, quando scoppia, fa male a tutti. Buona giornata. Grazie e buona giornata, direttore. A domani, ovviamente, alla solita ora. Sono le 8:35 in questo istante, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Come preannunciato, è ospite, io lo saluto, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, il Sindacato dei Magistrati, Luca Palamara. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei, ben trovato. Allora, oggi tra l'altro c'è un convegno proprio alle 15 a Roma, il pubblico organizzato dall'ANM, il pubblico ministero e le indagini sul potere, questo è il titolo. Mi viene da farle la prima domanda, presidente. Voi avete la sensazione, lanciate l'allarme, che il potere, in questo caso il potere politico, posso dire, voglia limitare, modificare la figura del pubblico ministero, del magistrato? Guardi, non è un allarme, ma è un modo per discutere di un tema sul quale nell'ultimo periodo è tornato di forte attualità. Noi vogliamo affrontare un duplice aspetto del problema. Da un lato, appunto, evidenziare come l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e quindi il pubblico ministero inevitabilmente debbano richiamarsi alla professionalità e alla responsabilità. Dall'altro, affrontare indubbiamente anche il tema delle recenti modifiche che indubbiamente, se dovessero realizzarsi, potrebbero comportare una limitazione di quelli che sono i poteri investigativi dell'autorità inquirente. Questi sono i duplici temi che noi oggi in questo importante convegno vogliamo affrontare, ed è un convegno aperto al dibattito e al contributo di tutti quanti, addetti ai lavori e anche non addetti. Senta, rapporto col potere, dire che qualcuno ha detto di recente, proprio l'ANM fu dura, per esempio nella famosa inchiesta, quella Why Not, quella di De Magistris, tanto per intenderci, intervenne in maniera anche dura nei confronti di alcuni magistrati, e qualcuno disse perché in quel caso c'era un magistrato De Magistris che voleva colpire il potere. Anzi, ieri forse l'avrà sentito, ha detto avevamo scoperto la nuova P2 ma ci hanno fermato. Sì, vorrei chiarire che noi indubbiamente nel dicembre scorso abbiamo, come Associazione Nazionale Magistrati, assunto una posizione indubbiamente molto forte, e tra l'altro come mai era accaduto in passato. In realtà vorrei ben chiarire che noi non ci siamo mai preoccupati del merito delle vicende. Noi riteniamo appunto di poter svolgere il nostro ruolo dal punto di vista culturale, cioè ispirarci ad un modello di magistrato, e abbiamo solo evidenziato quelle che erano delle problematiche che noi abbiamo ritenuto di individuare nel metodo con il quale l'indagine era stata condotta a Salerno, e successivamente evidenziare quelle che invece erano state le violazioni di legge a Catanzaro. Questo è il termine della questione, perché noi riteniamo che soprattutto nell'attuale fase storica, lei prima ha parlato di sindacato, in realtà l'associazione non debba configurarsi né come un mero sindacato, né dall'altra parte come una corporazione, ma come una libera associazione che fa sentire la sua voce su questioni importanti che sono al centro, ripeto, del dibattito del Paese. In altre parole, il nostro vuole essere un contributo tecnico per il miglioramento del servizio della giustizia, che oggi, a mio avviso, costituisce il vero problema, purtroppo irrisolto, di questo Paese. Senta, a proposito, ha sentito De Magistris che dice forse entro in politica? Se accadesse, lei che pensa? Sono scelte personali che ovviamente non mi permetto di commentare. Ognuno, si assume le sue responsabilità e fa quello che meglio crede per la sua professionalità e per le sue aspirazioni. Un disegno di legge che è molto in discussione e sappiamo è molto anche criticato dall'Associazione Nazionale Magistrati, è quello delle intercettazioni. Però, tra l'altro, notizia proprio di oggi, insomma di ieri, Rutelli, il presidente del COPASIR, il Comitato sui Servizi Segreti, ha detto sul caso Genchi, anche in questo caso, insomma, sapete, il consulente di molte procure, tra cui anche di De Magistris, che aveva, pare, contattato, sentito, intercettato tantissimi italiani, ha detto uno scandalo, milioni di euro spesi senza un perché, bisogna essere più restrittivi soprattutto nel controllo delle intercettazioni sui servizi segreti. Lei che pensa di questa vicenda? Ci sono stati degli abusi sulle intercettazioni? Guardi, io penso su questa vicenda che da ormai da maggio dello scorso anno che si dibatte sul tema delle intercettazioni. Se non ricordo male, vado a memoria, si è iniziato dapprima con la famosa lista dei reati, cioè reati che venivano esclusi dalle intercettazioni, per poi appunto arrivare alla previsione dei gravi indizi di colpevolezza, poi delle date sufficienti, poi infine diventati evidenti e ora con delle esclusioni per quanto riguarda appunto i funzionari dei servizi segreti. In realtà io penso che bisogna sgombrare il campo da un equivoco di fondo, e cioè noi dobbiamo difendere l'uso dello strumento investigativo. Parlo come magistrato, parlo come pubblico ministero e parlo appunto in generale come addetto ai lavori. Lo strumento dell'intercettazione è fondamentale per l'accertamento dei reati. È chiaro che noi non possiamo tollerare abusi per quanto riguarda le intercettazioni, ma io penso che il vero nodo irrisolto, e qua si sovrappongono due piani distinti, è quello della successiva pubblicazione del materiale rilevante. Questo, a mio avviso, è il tema sul quale la politica dovrebbe concentrarsi e confrontarsi, senza limitare invece lo strumento. Che è importante non solo per l'accertamento di gravi reati, ma anche della criminalità comune. Pensiamo... Però si dice non è mai stato colpito, per esempio, chi ha distribuito queste intercettazioni, la manina famosa da quale sono uscite. È molto importante, sul quale, se mi permette, anche spesso si fa confusione, perché noi dobbiamo distinguere gli atti che sono segreti, quindi le intercettazioni segrete, da quelle che non lo sono più, perché ad esempio sono poi trasposte e riportate in ordinanza di custodia cautelare, che indubbiamente non sono più segrete, quindi conoscibili da una cerchia di soggetti più ampia di quella del mero magistrato, del pubblico ministero, dei cancellieri, delle forze di polizia giudiziaria. Sono questi i due aspetti sui quali dobbiamo dobbiamo concentrarci. Facciamo un esempio molto pratico: l'unico caso che mi viene in mente di pubblicazione di intercettazioni segrete, se lei ricorderà, fu il famoso libro nero dell'Espresso a proposito di Calciopoli. In quel caso vennero pubblicati integralmente atti che ancora erano segreti. I successivi problemi che si sono posti, soprattutto in tema di pubblicazione, riguardano in realtà passi riportati in ordinanza di custodia cautelare, in relazione al quale, come dicevo prima, in realtà il vero aspetto è quello di individuare un momento. Noi avevamo pensato come suggerimento una sorta di udienza stralcio, dove in presenza di un giudice e un pubblico ministero e la difesa discutono di quello che è il materiale rilevante per l'indagine. Sì. Ciò che è rilevante viene messo in un archivio segreto e ampia l'area delle intercettazioni, del cosiddetto materiale segreto, perché in definitiva anche gli ultimi casi che maggiormente hanno fatto discutere, senza, come dire, nasconderci dietro un dito, le intercettazioni Berlusconi-Sacca, in realtà si riferiscono a un momento nel quale gli atti non sono più segreti, perché era stato fatto l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Però voglio dire, anche quel libro nero famoso che lei ne parla, insomma, poi di quell'inchiesta lei ne sa qualcosa, insomma, perché è anche pubblico ministero, non ha avuto contezza di punizioni, di sanzioni nei confronti di chi l'ha fatto uscire. Ci sono state indagini penali, però, come sa, per quanto riguarda il tema della rivelazione del segreto d'ufficio, dall'altro canto le difficoltà nascono pure da un dato oggettivo, che comunque il giornalista può avvalersi del segreto professionale, comunque l'unico strumento che ha il giudice per ricercare il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, il reato a carico del pubblico ufficiale e non del giornalista, e quindi chiaramente si presuppongono attività di indagine che non sono oggettivamente facili, perché presuppongono una collaborazione che spesso manca. E dall'altro canto, quando comunque ci sono indagini che riguardano perquisizioni presso sedi di giornali e giornalisti, come lei comunque si sa, diventa appunto un problema, quasi una sorta di attentato al diritto di cronaca. Quindi si tratta di una materia oggettivamente delicata, in relazione alla quale comunque, se ci sono state violazioni, io ritengo debbano senz'altro essere perseguite, tanto se vengono commesse da pubblici ufficiali, da magistrati, da cancellieri, da polizia giudiziaria, perché la segretezza degli atti, soprattutto in determinate fasi del processo, deve essere assolutamente garantita. Le chiedo, Presidente, lei ha detto non vogliamo essere una corporazione, la NM, però la percezione dell'opinione pubblica su tanti elementi, ma guardi, siamo un paese di caste, quindi lo dicono anche a me che faccio il giornalista, siete la casta dei giornalisti, è una difesa corporativa, non so, quando avviene del magistrato che non deposita la sentenza, c'è stato il caso di Edi Pinatto che è stato poi sanzionato, però ci sono persone che escono dopo aver commesso reati, vengono lasciate libertà. Insomma, la percezione dell'opinione pubblica è che tutto questo venga fatto e i giudici non paghino quasi mai. Guardi, purtroppo è vero, questa è una vulgata pubblica che non è attenta alla sfida del rinnovamento che noi vogliamo affrontare, ed è un rinnovamento che però noi vogliamo fare non solo a parole, ma nei fatti. Io penso che la vera sfida che deve fare la magistratura oggi riguarda appunto un duplice aspetto. Dobbiamo renderci conto che si è passati da un sistema che fondamentalmente era caratterizzato dalla progressione in carriera basata sulla mera anzianità e sull'assenza di controlli, e che quindi inevitabilmente maggiormente ha portato ad essere corporativi, ad autodifendersi, ad un sistema nel quale oggi per fare carriera bisogna superare ogni 4 anni dei controlli. Per essere nominati capi degli uffici non è più sufficiente il mero requisito dell'anzianità, ma bisogna privilegiare le attitudini e il merito. Ora, io mi rendo conto che questi sono concetti non facilmente percepibili da parte dell'opinione pubblica, ma noi questa sfida la vogliamo affrontare non con le parole, ma con i fatti, perché a proposito appunto del convegno di oggi, ma anche delle vicende che lei prima mi ha chiesto all'inizio della trasmissione, il grande problema che dobbiamo risolvere è quello dei capi degli uffici. La giustizia può funzionare nel momento in cui abbiamo capi degli uffici che realmente sappiano guidare gli uffici stessi e nominati sulla base di criteri del merito che consentono di superare altresì appunto le logiche di appartenenza. Questa è la sfida che noi vogliamo affrontare, sulla quale dobbiamo pure evidenziare come il Consiglio Superiore della Magistratura ha iniziato appunto a dare attuazione a questa tipologia di riforma. Presidente, io è ovvio che a quel punto non possiamo e non vogliamo essere una mera corporazione, perché essere corporazione significa difendere chiunque, e se invece difendiamo l'autonomia e la dipendenza, dobbiamo noi per primi dare una risposta di professionalità. Ho 10 secondi, Presidente, mi prometta però 10. La vicenda dello stupro della Caffarella, un'indagine che lei ovviamente non conosce nei dettagli, ma crede che possa insegnare qualcosa al fatto della scarcerazione, che poi rimangono in carcere ma insomma sono scagionati da quel reato? 10 secondi ovviamente sarò, non potrò sì. Insegna molte cose, insegna quelli che devono essere i rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, insegna la difficoltà di casi, soprattutto nel momento in cui bisogna raccogliere le prove, ma insegna appunto come è difficile oltretutto svolgere la fase della valutazione della prova. La ringrazio, Luca Palamara, presidente dell'Associazione Magistrati Nazionale Magistrati, per essere stato con noi. Le 8:49 minuti. In Francia una stretta sul fumo, vietata la vendita ai minori di 18 anni e anche l'alcol, così come la pubblicità, insomma una stretta su questi, sui prodotti da tabacco, i prodotti alcolici. Una stretta che forse arriverà anche in Italia. Infatti, primo firmatario di una proposta di legge in tal senso è il senatore Ignazio Marino, che saluto. Buongiorno, senatore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tra l'altro bipartisan, perché anche so che Antonio Tomassini del Popolo della Libertà ha sponsorizzato questa proposta di legge. Bisogna, innanzitutto, che ne pensa di quello che c'è in Francia? Immagino sia contento, visto che la proposta ricalca la vostra. Insomma, dobbiamo considerare che in Italia l'ultima legge che si è occupata del fumo nei confronti dei giovani, degli adolescenti, risale al 1934, è un decreto regio 24 dicembre del 34, quindi sono passati quasi 100 anni. Oggi la scienza ha dimostrato in maniera assolutamente chiara che tante malattie, non solo i tumori, dipendono dal fumo, perché con il fumo arrivano tante sostanze nocive, anche di questo poi ne parla la nostra legge, e quindi credo che sia venuto il momento anche in Italia di avere una regolamentazione che protegga soprattutto i più giovani. Allora, voi volete vietare ai minori di 18 anni l'acquisto o il consumo anche di tabacco, cioè il consumo anche in luogo aperto al pubblico? Che vuol dire? Cioè che un 18enne con queste ipotesi di legge non potrà fumare proprio neanche in un parco? Un diciassettenne, sì, voglio dire sotto i 18 anni. Un diciottenne chiaramente potrà fumare, ma insomma noi dobbiamo renderci conto che nel nostro paese le morti legate, attribuibili in maniera diretta o indiretta al fumo, sono 85.000 l'anno, che abbiamo il 32,6% dei ragazzi e il 20,7% delle ragazze tra i 15 e i 24 anni che fumano, e che spesso la prima sigaretta si accende prima dei 12 anni, e che le sigarette, purtroppo questo è un fatto meno noto, non contengono solo la nicotina e il catrame, ma contengono tante sostanze come l'ammoniaca, l'acetone, il mercurio, il piombo, il cadmio, tutte sostanze che sono davvero molto pericolose per la nostra salute. L'immagini lei se su un pomodoro al supermercato ci fosse scritto che contiene mercurio, piombo e cadmio, lo mangerebbe? Ma quindi voglio dire, la proposta è questa, cioè uno sotto i 18 anni non può fumare, non so, in un luogo aperto al pubblico, cioè in un proprio vietato anche il consumo, non solo la vendita, e questo è l'aspetto importante. Esattamente come l'uso del casco per il motorino, insomma, esatto. Io credo che, e in molti lo credono, che bisogna proteggere la salute dei più giovani. Poi evidentemente non ho nessuna difficoltà ad accettare che delle persone adulte, sapendo che attraverso l'inalazione del fumo inalano sostanze che potranno danneggiare permanentemente i propri polmoni e avviarli a malattie davvero molto gravi, lo facciano, questa è una libera scelta. Però penso che per un ragazzo giovane di 13-14 anni sia davvero un fatto. Ci deve essere un divieto, insomma, esatto. Un divieto. Le chiedo, visto che arriva un messaggio che è proprio, ci fornisce un'altra domanda. Dario da Vicenza ci scrive: a scuola di mia figlia, nelle superiori, c'è un luogo apposito dove ragazzi e studenti si trovano per fumare. Allora, articolo 6 di questa proposta di legge: nelle scuole di ogni ordine e grado è vietato fumare sia nei locali chiusi, ma questo insomma c'è anche la legge Sirchia, che negli spazi aperti di pertinenza. Cioè volete introdurre il divieto di fumo a scuola, in qualsiasi scuola di ordine e grado, anche, non so, nel cortile della scuola. Ma credo che la scuola sia un luogo pubblico e purtroppo penso che sia esperienza comune che in molti cortili delle scuole, nonostante teoricamente nei luoghi pubblici e soprattutto nelle scuole dovrebbe essere proibito fumare, insomma i nostri ragazzi fumano. E penso che effettivamente dobbiamo vederlo non come una proibizione, ma come una protezione per la salute dei più giovani. Dobbiamo ricordare che malattie molto gravi come i tumori e come delle malattie respiratorie gravemente invalidanti sono particolarmente presenti nelle persone che iniziano a fumare in età molto molto giovane. Un ultimo aspetto è anche quello dei distributori automatici, perché uno dice vabbè, ma se è vietato mando un tredicenne, e no, perché la proposta prevede anche questo, di entro 18 mesi da quando entrerà in vigore la legge, se passerà, quella di uniformare e rivedere tutti i distributori in modo che cosa? Di controllare, che ne so, il codice in fiscale? In modo che ci sia una possibilità con un documento con a lettura magnetica di poter acquistare la sigaretta soltanto se si ha più di 18 anni. È evidente che questo potrà essere facilmente eluso, basta farsi prestare il documento da qualcun altro. Fatta la legge, trovato l'inganno. Esatto, però farci? L'idea, io credo che l'idea, penso e spero che si comprenda, non è quella di introdurre un criterio di proibizione, ma di protezione rispetto a delle malattie davvero gravi e che forse a 13 anni, insomma tutti siamo stati 13 anni, non pensiamo che accendere una sigaretta e fumare diverse sigarette al giorno possa significare con una certa probabilità la possibilità di ammalarsi di cancro quando se ne ha 60. Senatore, è tutto perfetto, io ringraziarla, la saluto. Ma perché allora non passerà questa legge? Lei, che sono pessimista, voglio dire, cioè vede delle resistenze possibili da parte di chi? Io spero che passerà, evidentemente. Certo, il fatto che ha la mia firma e la firma anche del Presidente della Commissione Sanità, che appunto appartiene alla maggioranza, al Popolo delle Libertà, penso che dà un'idea del fatto che possa essere largamente condivisa. I tabaccai per esempio saranno contenti? Ma io penso che più che i tabaccai saranno scontenti e coloro che producono le sigarette. Un altro aspetto importante che introduce la legge è una specie di bugiardino, sa, come quelli che esistono nei medicinali e che tutti poi vanno a leggere e si spaventano. Il bugiardino anche nel pacchetto delle sigarette. Ci sarà un bugiardino con scritto proprio l'elenco di queste sostanze, ci saranno l'elenco e il contenuto delle 40 sostanze che sono nocive alla salute. Perché il fumo contiene circa 4.000 sostanze chimiche, ma 40 sono sicuramente, dal punto di vista scientifico, nocive per la salute. Allora, io, senatore Marino, la ringrazio e la sponsorizzo per quello che vale, cioè nulla. Insomma, questa proposta di legge personalmente la seguiremo sperando che faccia strada. E grazie per essere stato con noi. Mi resta solo da dire che tra poco c'è Giuliano Ferrara, parla di Obama, le staminali. Insomma, sapete che ha tolto dei veti che erano stati posti dal Presidente. Assessore Bush, si parla di questo. Grazie a tutti, ci troviamo 24 mattino e radio24.it domattina.